chi è? È arrivato in stazione. Chi è? Ciao Sandro, ben sentito, Antonio da questa parte. Buonasera Antonio, ciao. Ciao, tutto bene? Allora, dopo la normalità abbiamo fatto carica, ci siamo rifugiati, adesso solita routine. Strappando però sta. Aspetta un pochettino, sto strappando. Così va meglio? Taglio più lungo? Ok, taglio 3, prova, 4, 5, prova. Sì, decisamente, decisamente. Prima avevi proprio dei buchi nella modulazione, adesso va bene. Lo so, ogni tanto su questo bello caldo, quindi porta fuori un attimino le sue magagnette. Che cos'è il 44? No, negativo. Non si capisce dalla modulazione quale sia, perché è abbastanza simile a quella che hai di solito, dai. Ok, come modulazione come la trovi? Prima stavi strappando, era leggermente stato, adesso come hai toccato qualcosa sembra che abbia migliorato bene, cioè realmente tu hai una modulazione, una potenza talmente tale che sembra che stai modulando la Sassari, eh? Ho capito, lo so, vabbè, è tutta questione di regolazione, no, questo è un vecchio mitico, va bene allora, e anche da tenere caro, capito, che valvole monta? Non mi azzardo di dire una bugia, veramente non lo so che valvole monta, capito, questo logicamente ha bisogno di riscaldare, una volta che è caldo poi lui va. Ma è positivo che tu non lo sappia, perché evidentemente non le hai mai dovute cambiare, capito? Quindi vanno bene, vanno più per bene. Ti posso dire che questo, diciamo, a parte, diciamo, i suoi anni addosso, quando è stato ridesignato, è stato comprovato, è stato fatto un cercato, diciamo. No, ottimo, ma l'hai acquistato fuori, quindi non ce l'avevi da tempo. Sì, l'ho acquistato fuori, acquistato da una persona che conosco benissimo, che mi ha fatto alcuni lavoretti, ci sono stato presso un bel po' di tempo, infatti quando gli ho accennato che cosa volevo, ho detto, non è semplice, però diciamo si può provare qualcosina. E ho aspettato un po', poi logicamente se l'ho messo sotto, l'ho controllato, diciamo, poi me l'ho guardato giù. Ma in effetti diciamo che per i suoi anni che ha addosso, per l'altezza del museo che è, ho visto che si difende abbastanza bene, dai. Non volevo essere un'offesa al K, però la modulazione e la potenza di modulazione è la stessa, eh. Il K, me l'hanno già detto parecchi, diciamo che come modulazione, come spinta, si difende abbastanza bene, dai. No, mi è sembrato di sentire un break, avanti, c'era. Niente, ok, presente. Ok, da parte mia Brecco non ho sentito, soltanto ho sentito una modulazione estera, magari, aspetta un po', ok, troppo compresse, stavamo strappando. E anche ho sentito una sovramodulazione, ma evidentemente non vuole entrare. Avanti 10. Andrò a bordo torre, ma anche tu sei un po' crepa crepa, passa un po'. Sandro, comunque c'è Sandro in Porto Torres, Fabrizio Chiticato, si viene anche al tempo, Sandro. Ok, ciao Fabrizio, buonasera, buonasera, Sandro in Porto Torres. Partirò, sincera verità, ti sento rimbombante, ma pensieri molto di più, hai migliorato qualcosina, comunque secondo me dovresti abbassare leggermente. Allora, aspetta che ti regolo. Un attimo, aspetta, passiamo qua. Allora, 1, 2, 3, prova, prova microfono, prova microfono, 1, 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova microfono, così dovrebbe essere perfetto. E si conferma, così sei bello. Bello pimpante, bello limpido, ricordo, ok. Cosa ti volevo dire, Fabri? Riguardo la mia moderazione? No, stai arrivando bene, guarda, stai arrivando bene, tutto a posto. Va bene, Santiago 9 e 10, la radio 5. Ok, ecco, come stavo spiegando. Diciamo questo mitico. Allora adesso vi voglio fare una prova per farvi capire diciamo i tetti vecchi della ruota in proporzione di una nuova tecnologia, che cosa riescono a fare. Ok, allora io esattamente adesso mi trovo a 5 volte. Esattamente a 5 volte, lasciando perdere un attimino le picchi di moderazione. Fabrizio, non mi ascolti? Allora, no, ma stai dicendo sempre bene, va bene, dai. Ok, Antonio. Una bomba, stai riuscendo bene, stai arrivando bene. Ecco, per dirti, con 5 volte, guarda, con 5 volte dei picchi di popolazione spaventosi. Ma dai, lo stesso segnale che c'ha Fabrizio qua, qua che sono in via Corsa. Non dico, io mi fido di te, però sarei dubbioso se non me lo dicessi tu che fossero 5 watt, perché stai arrivando a bomba. E guarda, tanto è inutile dire che c'è un accento e che poi non ha nessun valore, quindi a noi piace sempre, diciamo, la chiarezza e la razza. Io con portante muffa ho 5 watt, picchi di modulazione spazzano anche 100. Sente, ma ti sento, cioè non, i 5 watt non si sentono, nel senso che arrivi comunque, non si sente la differenza, arrivi a bomba. Complimenti, è un apparato davvero ottimo. La marca qual è? La marca, allora ti dico che è mitico, Maezio 201 ZB. Lo voglio, posso chiedere, è pagato quanto? Ti posso dire che non ho pagato eccessivamente, logicamente rimetto un po' in sesto, vorrei controllarlo, e così via, diciamo, non eccessivamente, diciamo, non logicamente ai livelli di un apparato nuovo di oggi, bensì di un apparato, diciamo, di mercato che potresti trovare a giorno d'oggi per via. Capito? Tutto lì. Roger, ma quante valvole ha? piano, deve essere davvero un bel apparato. Di piano è esattamente? Questo non ti posso dire, questo non so dire, penso anzi, ti direi un altro tempo, sia degli anni 70, non so. E anche anni 80. Chi era Gianni? Oh, Romeo 1, buonasera a tutti, anche anni 80 sarà quell'apparecchio. Buonasera Romeo 1, stiamo ascoltando da Porto Torres. Dove sei a Porto Torres? Positivo, Porto Torres. Miei dubbi, Porto Rico. Sandro mi sembra che c'è, no? Fabrizio, mi confondo con Sandro. Fabrizio, riprendi tu, da. Riprendo io, è affermativo, ciao, ben entrato, Romeo 1. Anto, ho fatto quella riparazione sul Kenwood, gli ho cambiato, ti ricordi che ti avevo detto che aveva quel problemino dai 0 ai 500 kHz, dove sono praticamente le radio broadcaster, che non usciva e dava i puntini. Ho cambiato sedioli sulla piastra di commutazione bande e ha ripreso tranquillamente a funzionare. Erano quelli che erano andati a fanculo, capito? Ho perso un po' in continuità, erano andati, quindi su quelle bande non andava. Le ho cambiate e ripreso tranquillamente a funzionare. È normale di questi apparecchi, adattati, che ogni tanto bisogna fargli manutenzione. Io non ho, sto iniziando a preoccuparmi perché non mi sta più ricontattando la persona dell'apparato. Niente, l'ho chiamato adesso, non mi ha risposto, non mi ha mandato nulla per email. Vabbè, andiamo a vedere, dai. Ma tu l'hai pagato? Negativo, non ancora, perché mi devo dare il prezzo sommato di una spedizione assicurata e non lo faccio spedire con le poste italiane. Ho capito, vabbè, ma non c'è problema, non ci dovrebbero essere problemi, può essere che non ti ha contattato per altri motivi, capito? E come arriva facciamo quella prova, perché prima di intervenire su quell'altro problemino, se è un problemino, voglio capire se è una cosa normale oppure è la zona qua che ci sta portando dietro un po' di mondezza oppure l'apparecchio, c'è da vedere, dai, avanti, altro e fai girare. Comunque confermo Romeo 1 che Alessandro assolutamente sta modulando dalla città di ferro e ha un po' la maledizione di Cassandra, dice la verità e non gli credono, ma perché? Perché esce talmente bene, quindi non credergli non è un'offesa ma bensì un complimento all'apparato che ha, perché è davvero devastante, e te lo rilancio per una ulteriore modulazione. Avanti Sandro. Segnale, se lo stanno bypassando in poche parole. Vabbè, se tu riputi che sei da Papatango ci credo tranquillamente, però segnalone, vabbè che io sono in una zona abbastanza buona, insomma portatore se ce l'ho un tiro io, che caso mi stai arrivando 9 più 5, però rimane un po' satura, rimane, per i miei gusti, non è limpida limpida. L'apparato là mi sembra dovrebbe essere degli anni 80, perché c'era la Somerca, poi la Somerca l'aveva rilevata la Yaesu, mi sembra, adesso non ricordo bene, c'era linea Collins, linea Drake, e c'era una roba in circolazione l'epoca, è roba che costava anche adesso costa, ma prima quando avevi quella linea lì che ti la mano nei capelli. Riprendi allora Fabrizio, dai. Riprendo io e rimango un po' in quel Rick, sì, che sto seguendo una cosuccia anche al PC sto facendo, riprendo dopo, comunque rimango in ascolto un po' di tratto, ma rimango in ascolto. Però prendo io un attimino, no, infatti Sandro, non vuole essere parte al presupposto una mancanza di rispetto nel quello che dici, ma assolutamente ti vorrei registrare perché stai arrivando talmente bene che è un complimento, capito, il non apparentemente non crederti, poi alla fine una persona si rende conto che è motivata, sarebbe motivata una bugia, però arrivi talmente bene che sembri dietro casa, cioè ci sono persone di Sassari che arrivano decisamente 10 volte peggio di te, cioè arrivi talmente forte che è incredibile, è incredibile. Vecchi? Grazie Fretta, avanti. Ok, ciao a tutti, ciao Romeo, ciao Fabrizio in quel Ricchis e ciao Alessandro. Alessandro, a te dico una curiosità, stai usando per caso quel famoso dipolo nella, con la impressione? No, ciao Giulio, ben ascoltato, buonasera anche a te. Negativo, per dirti la pura verità, sfondando l'antenna. Ok, no, era solo una curiosità perché vedevo il QSB, cioè i picchi positivi che c'erano, che leggo qua sullo smitter, che sono formidabili. Sì, in effetti stai uscendo molto molto bene, complimenti per quell'apparecchio. Ok, vi saluto, rimango in ascolto, dai, io non posso modulare, c'è la televisione accesa qua. Riprendi Grove, Giulia da questa parte, ciao Romeo, e io rimango in ascolto, ciao a tutti, riprendete. Ciao Giulio, ben sentito. E poi comunque Rix, riprendi quando vuoi con piacere. Avanti, Romeo 1, che forse credo che io ti sto arrivando al pari di come ti sta arrivando Sandro, no? È affermativo, perché ho detto, ma è strano che a te, cioè, sei vicino di casa in poche parole, e lui mi arriva come te. Sono problemi della propagazione anche. Comunque stavi dicendo, Antonio, cosa hai ordinato? Apparecchio da fuori? No, aspetta un attimino, io adesso non mi trovo nel mio QRT attuale. Scusami, QRH attuale, io mi sto trovando in un altro QRH che è quello di via degli astronauti, quindi da tutt'altra parte rispetto a dove sono dall'altra parte della città, tra l'altro con un'antenna che ancora non è ben piazzata per vari motivi, perché come ti ho detto ieri sto ancora scegliendo il posto dove piazzarla. Sì, sono riuscito a trovare un 44 su eBay a un prezzo davvero conveniente. Vabbè, se tu gli hai fatto il pagamento con, come si chiama, un PostPay o PayPal, cosa te lo devono mandare? No, è che lui mi ha fatto un'offerta diretta, poi io gli ho detto, siccome volevo evitare di riceverlo con le poste italiane, allora gli ho chiesto la cortesia di informarsi con la Bartolini e ancora non mi ha fatto sapere niente, è quello, capito? Guarda se ti sta arrivando meglio così, hola. Sì, questo passaggio è buono. Con la Bartolini mi sembra che sia 15 euro, però devi pagare anche l'assicurazione a parte, che va assicurato l'apparecchio. No, ma è quello che volevo, perché obiettivamente, siccome sai, è facile che riescano a capire cosa c'è dentro, quindi preferirei un attimino che fosse assicurato, sicuramente. Ah, c'è un po' di idea, inglesi, americani. Sì, come è arrivato il mio, perché il mio ha fatto il giro dalla Spagna, Francia, Italia, Sardegna. Cioè, guarda, come lo mangio il giorno al tipo. Poi si capiva più a chi avevo lasciato il corriere, guarda, un casino della parola. Pensavo dicendo, ma non è che è andato disperso l'apparecchio, ciao assurdi. Ma poi sai che cos'è? Sono talmente delicati che più li sbattono, perché anche se esternamente non hanno danni, però questi apparati sono talmente pieni di schede, di cose, che come li sbattono si staccano le schede, capito? Ah, il mio li avevano messo, l'esterno era ben protetto e anche all'interno sigillato bene tutto qua, comunque nella scatola sua, poi all'esterno l'aveva riballato veramente bene, anche se prendeva colpi non succedeva nulla all'apparato. C'era grandi modulatori del binario, questo è un binario 27.075.0046. Però ti abbiamo sentito Luca, sei in compagnia di Romeo, quindi Sandro da Porto Torre. Ciao, ah, sì, Sandro, ciao Romeo, ciao Sandro, avanti. Ok. Ciao Luca, buonasera, e poi ho ascoltato anche a te. Cappa, grazie, ciao Luca, avanti Romeo, prego. Ok, ciao Luca, 73 anche a te. Aspetta, volevo chiedere a Sandro, che zona sei a Porto Torre, se Sandro? Allora, io mi trovo diciamo in periferia, all'uscita, quasi all'uscita di Porto Torres. Ma ha passato l'autosalone di Masola? No, negativo, non so se conosci zona Orlando. Sì, lo conosco, conosco anche una persona in quella dove stai dicendo tu, abita dietro il distributore, quella zona. Ho capito, magari la conosco più, la conosco pure, va bene. Sto modulando per dire dai punti o da San Giovanni e poi tutt'altro. No, negativo. Porto Torres c'è tutto da parte mia. Luca te lo può confermare. Ho copiato, i fetti sanno, cosa devo confermare? Perdonami. No, Luca, anzi, quando sono entrato, c'è stato Romeo 1 che mi ha detto che stavo modulando da Porto Torres. E lei logicamente mi ha detto i suoi minuti. E quindi diciamo, forse diciamo, non lo so, capito? Ah, ecco, ho capito, no, la confermo, è giù a Porto Torres. Romeo, tranquillo. Tu invece che zona non mi ricordo, sei in periferia o stesso, no Romeo? Affermativo, sono in periferia io. Anche tu segnale sei 9:20, eh? Va bene, ok, chiamiamo a coso, Antonio. Antonio ci sei? Antonio ci è, fra l'altro mi dovete scusare, però stasera ho ricevuto, anzi stamattina, una richiesta da una persona di Villalba che più di una volta dice che ci ha chiamato, cerca di entrare nella nostra ruota, nel nostro QSO, però non lasciamo abbastanza tempo fra un passaggio e l'altro. Allora ti chiedo Romeo, visto che tu sei un attimino in una zona positiva per Villalba, vedi un attimino se puoi fare una chiamata, lui si chiama Gianmario, fai una chiamata per Gianmario di Villalba e stai all'ascolto per vedere se riesci a sentirlo. Ok, ma aspetta un attimino, siccome c'ho anche un inglese che a me mi sta arrivando, un americano, te lo so dire, mi sta arrivando abbastanza forte, mi arriva roba di sette, passi pure che me lo tappi. Gianmario, se sei all'ascolto, stazione Romeo 1 da Sassari che ti chiama. Allora, scusate con la speranza che logicamente non ci sia sottofondo modulando. Non sento niente, mi sono fatto avanti perché sentivo dietro c'era già qualcuno che modulava da Pavesi e Vitalba, e diciamo Purgatore, se per Pavesi e Vitalba è abbastanza diciamo favorevole come zona diciamo, dai. Ma falla tu la chiamata, Sandro, assolutamente, se non ha sentito niente Romeo, rilancio a te per chiamare un attimino, si chiama Gianmario, così mi ha detto. Ok, un attimino, nara denara, poi mi arriva una passata EQRM e mi porta a Santiago 9 e poi ritorno a zero, arrivo all'inglese o l'americano, ancora non sono riuscito bene a decifrarlo. Diciamo Porto Torres è l'ideale per Vidalba, quella zona lì, non la zona nostra, ma anche l'altra sera c'era anche Sandro o Fabrizio, non mi ricordo, l'altra sera eravamo in una determinata cosa e a me non riusciva a copiarmi, vabbè, lui stava andando in QRT, stava andando questo tipo, l'ha chiamato lui, però deve essere che aveva spento, si è spostato. Ok, riprendi tu Luca. Vabbè, Luca non riprende perché mi sa tanto, ha detto che faceva senz'altro problemi con la televisione. Antonio, a te il microfono, dai. Scappa di Rogero. Aspetta un attimino che stacco qua questa cosa che mi sta un attimino incendiando un attimo. No, scusate, mi ero accusato, piccolo, mi ho approfittato, questa lo stava per parlando, lascia un po'. Prego. Ma Roger, ti stavo dicendo Romeo, ma quindi sarai un attimino più costante, perché c'è stato un periodo di buco dove non ti ho più sentito, quindi mi è dispiaciuta la cosa. Non farci caso, perché a volte, sai, io mi devo, la roba non è che ce l'ho in uno spazio che lasci tutto lì montato, io quando smetto di trasmettere mi ritiro tutta la roba, metto tutto da una parte, poi quando devo trasmettere collego i cavi, tutta la roba, alimentatore, apparecchiatura e trasmetto, ma se no, non è sempre, sì, a volte in 27 non entro e ascolto altra cosa. Fa di Roger, ma io ho visto vicino a casa mia, ma c'hai un discone come antenna ricevente? Un discone come antenna ricevente? No, c'è solo quell'antenna, poi c'è un altro antennino sul poggiolo piccolina. Negativo, no, perché in zona nostra sei pullula di antenne che però evidentemente sono cadute in disuso, che nessuno stava utilizzando, però ci sono, quindi uno è un po' confuso dalla cosa. Gatto dove abito più o meno, no? Hai capito, zona Conad, quella zona lì. Poi ce n'è un altro, quello che c'è in Via l'Italia, quella compagnia telefonica sul lato sinistro, che c'è un passo carrabile lì per scendere, c'è un'antenna appoggiata su un poggiolo, non so di chi è quella. Te l'ho detto, quella lì è di Daniele, è un'antenna un po' particolare perché non sono riusciti a tirarla su per una questione logistica, più di tanto, è un avanzo a 5 se non sbaglio, però a cui mancano un paio di radiali, però ha un buon piano riflettente sul tetto e va più che bene, me l'hanno lasciata così assolutamente, è il mio vicino di casa, poi la mia l'hai vista dove invece? Sì, l'ho vista la tua, ma non è quella che ti sto dicendo io, guarda che un palazzo mi sembra su due piani è fatto quella palazzina, ti sto dicendo, o sto confondendo io, o la palazzina dove è piazzata questa antenna è su due piani. Roger, quello è Daniele, ti ripeto è Daniele, ed è in una via privata che c'è tra una via e l'altra, non ha problemi a farlo sapere perché, ti ripeto, poi alla fine le antenne più evidenti sappiamo di chi sono, siamo di rispetto, anzi, strano che non sia entrato, ogni tanto fa QRX, se fosse in ascolto avrei piacere anzi che entrasse, perché ha un ottimo segnale, lo stesso è uno di quelli che hanno quegli apparatini come i nostri, quindi niente. Ma tu rettifico, l'antenna è turbo, non è 5. No, sei sicuro? Guarda che la turbo ce l'ho io, mi sembra che la sua sia 5. Quanto va turbo? Che facevo l'antenna? Perdonami, allora Giulio, scusatemi, sì, cos'è turbo? Evidentemente però è turbo primo, come si dice, del vecchio tipo, perché la nuova fa schifo, me la sono comprata io ed il materiale è completamente diverso, infatti è molto migliore quella. Ok, a tu, infatti, ma con due radiali è impossibilitato a montarli per le questioni logistiche, come hai detto tu. Non può salire sul tetto e allora si è arrangiato installandolo lì nella ringhiera del suo terrazzino, capito? Va bene, continuate, e vi ascolto. Sembra che abbia il mollone di carica anche più piccolo, vabbè, forse visto da giù per quanto anch'io l'ho vista da su, però poi i materiali mi sembrano migliori i suoi, io l'ho comprata da poco, ripeto, è l'ultimo modello della Turbo, Quello che mi lascia così è che un'antenna che abbiamo pensato a tutto, un'antenna così riuscita nel tempo, perché diciamo che un caposaldo al pari dell'Alan 48, poi alla fine, come poi se non come riferita ai baracchini, non abbiano ancora trovato un sistema per far sì che i radiali non scendano a seguito dell'appoggio di qualche folletto, quali cornacchie o cieli di grossa pesatura. Te lo posso dire io il sistema come installarlo. Basta un filo di lenza, quello che si usa per la pesca, legando il radiale e poi allungandolo verso lo stile centrale. Tutti i radiali fatti in quel modo, e ti posso garantire che i radiali tengono molto, ma molto di più, anche sotto la spinta dei vari uccelloni che ci sono, tipo gabbiani, eccetera. Ottima idea, che metterò in pratica, ma gli metti un anello su oppure gli leghi proprio al cerchio? Sì, si può mettere un anello, si può mettere, li vendono addirittura, non è un problema, tanto mai quello lo isoli, perché se non cambia l'impedenza dello stiro centrale, fidati, perché io ho fatto l'antennista per tanti anni, ed è un consiglio che ti posso dare con la massima certezza. Pertanto non è un problema, guarda, il fatto dei radiali, hai ragione, quando si mette qualche uccellone lì sopra, al momento dello spicco al volo, il volo, la spinta è talmente tanta che il radiale stesso ne subisce le conseguenze. Invece collegato appunto, come ti ho detto, con un filo di lenza che è resistentissimo, e appunto a una ralla che si attacca al tubo centrale, alla parte più robusta dell'antenna, no? E vi vedrai che la consistenza è talmente grande che dura tanti anni in più. Ti ringrazio per il consiglio, che metterò in pratica assolutamente, però me la prendo sicuramente col progettista, che poteva fare i radiali ad avvistatura, come ad esempio la Sirio, come fa la Sirio 2008-2016 della Intex, se non sbaglio. E invece hanno fatto questi fermi passanti, che sono proprio dei bulloncini in acciaio, che molto fini, e ti ripeto, basta che si metta all'estremità, che come sempre è una questione di leve, come hai detto tu, spicca il decollo, una volta, due volte, alla fine lo fa cadere. Sì, in effetti la Sirio è rinforzata, però c'è da pensare questo: la Sirio ha 3 dB, 3,5 decibel di guadagno, e adesso bisogna vedere a che cosa si riferisce, se è il dB isotropico oppure se è effettivamente un dB così come tutte le antenne, perché la Turbo ne ha 8, di conseguenza bisognerebbe chiedere, informarsi con la massima certezza, perché la Mantova Turbo dà 8 decibel di guadagno, no? Però no, bisogna vedere che guadagno ha isotropico, capito? Più di te questo non lo può sapere nessuno, io sono abbastanza ignorante in merito. Comunque ti ringrazio per il consiglio, assolutamente che metterò in pratica, non dico domani stesso, ma dopodomani sicuramente. Avanti Luca, scusatemi un attimino, QRX per me, che sto sbrigando una cosa, ma rientro subito. Un attimo. Ok, un attimino, siccome Giulio poc'anzi mi ha chiesto che cosa stavo usando, e siccome sono parecchio che non lo uso, io adesso vorrei fare una prova, visto che ci siete, di poterlo usare. Giulio, ci sei, sì? Sì, ci sono, sa. Ok, se mi date 2 secondi devo soltanto collegare il cavo con l'accordatore. Ok, vabbè, metto in pratica quell'elemento autocostruito, vediamo un po', perché i picchi positivi di poc'anzi erano formidabili, ecco per il motivo che ti ho chiesto, così per pura curiosità, se stavi utilizzando quello, perché mi ricordavo che ti dava dei picchi positivi straordinari, quello dei polo lì. Dipende da me. Ok Luca, certo, a te si succede. Sto guardando l'alimentatore, l'ampere, all'anima quanto ciucci. Fabrizio, non so se è all'ascolto, se sta combinando qualcosa. Fabrizio, ci sei? Poc'anzi ha chiesto quel Ricchis che era al computer, stava lavorando al computer. Sì, comunque ci sono, vi ascolto. Vabbè, ti stai preparando? Sì. Scusate un attimo. Ok. Scusate un attimo che devo logicamente apportare. Ok. Sì, sono dei picchi straordinari, veramente molto ma molto alti. Ok, allora aspetta un attimino perché siccome l'ordinamento ti ascolta molto basso. No, no, sto uscendo. Non riesco a far appena a tirarti fuori. Sta usando il dipolo, capito? Sandro, lo devi puntare dalle mie parti come la volta scorsa. Ok, vediamo un attimino. Romeo 1? Dicami, ascolta un attimino, se c'hai il Mikey Gin abbassalo appena il Mikey Gin. Allora, abbassiamo leggermente il Mikey Gin, ok, ok, così va bene? Un pochetto ancora. Un pochetto ancora, un pochetto ancora. Questa è la radio, Romero. Ciao Sam, è carino la radio, sono affatto. Aspetta un attimino, la base è un pochettino il Mikey Gin, che se no con l'altro rimane in saturazione, rimane. Sto abbassando il Mikey Gin, e logicamente sono, adesso sto andando con la cordatura, e logicamente un po' di distorsione la fa. Ok, va meglio? Sì, per me va meglio, stai andando col dipolo, stai uscendo però, Sì, appunto, non sono in antenna, sono con un quarto d'onda, con un dipolo da un quarto d'onda. Logicamente sto andando con la diretta con un corpo, con un accordatore, e con l'accordatore logicamente diciamo mi distorce, perché me ne accorgo che mi distorce la modulazione. Ok, vediamo un po', Giulio. Ok, sì, ti ascolto bene. Per me la radio qua va bene, io ti ascolto bene. Ti ascolto con un altoparlante esterno, dunque. Ma ti ascolta bene tu? Molto più sensibile alle modulazioni, capito? Dunque ti posso garantire che io qua alla mia stazione va bene, che siamo non molto lontano, perché io sono nel punto, lo sai benissimo, e dunque la radio è buona. No, confermo che la radio è buona, poi non so, sto ascoltando. Non è che voglio dire niente a Giulio, ma sa che te la sto usando, ma io non lo sento bene. Avanti, Romante. Ok, ma lui c'ha la questione, il problema è che c'ha l'accordatore anche, se sta impedendo pure di uscire, poi ha abbassato un pochettino, ma che... Quanto è lungo quel dipolo che hai fatto? 2,74? 1,75 sta a braccio. E stazionare molto ne hai? Andando con l'accordatore perché ho le stazionarie senza accordatore ce l'ho quasi a 1,7-1,9. Mazza Dio, passatene in antenna, poi vediamo un pochettino con Mikey Gin se riusciamo a farla regolare bene la voce. No, ma è giusto diciamo fare, perché adesso ero da parecchio diciamo che non l'ho usato, va bene dai, datemi un attimino che passo in antenna. Ok, d'accordo. Luca, riprendi tu, dai. Sì, va bene. Ma che altre cose devo fare? Tu ci sei. Io tra un po', ragazzi, vi saluto. Prima di mattina, trinchia, esce la cosa, e partire da Convuglia. Però, purtroppo ci devo andare, ci devo andare. Perché stavo male lo stesso. Anzi, a proposito che sto male, vado a prendermi il Remazina. Riprendi tu, Giulio. Ok Luca, sì, no, ti volevo rispondere anche poc'anzi, tu lo sai benissimo, il dipolo ha un puntamento, diciamo, si vede che dalle mie parti è puntato meglio che dalle tue, ecco, l'ho spiegato il motivo per cui io lo ascolto bene, tu magari lo ascolti meno bene, capito? Oh Luca, il discorso è solo quello, il dipolo è così purtroppo, capito? Un attimino, aia, mamma mia, aspetta. No, il problema è che non era chiara chiara la radio, era un po', come dire, compressa, ecco, come modulazione. Poi se sbaglio mi correggerà Romeo, non era chiara, c'era proprio compressa, sembrava quasi in saturazione. Però tu lo sentivi bene, lui si sente molto molto basso, cioè a quanto ha detto lui, Sandro, si sentiva molto basso. Avanti Romeo, riprendi. Ok, no, ma anch'io infatti lo sentivo voce in saturazione, satura proprio, deve essere, non c'aveva molta bella uscita, che l'ha detto anche che c'è stazionaria, giustamente stava uscendo col dipolo, perché il dipolo vuole accordato bene, se non è accordato bene il dipolo ti crea problemi. E comunque lo chiamiamo di nuovo, se ha piantato l'antenna Porto Torres. Se ci sei, se sei pronto, proviamo di nuovo, dai. Ok, adesso sono in antenna. Vedo un attimino se devo regolare per caso il Mac Game. Luca, intanto nel frattempo che lo regola riprendo io. Sì Luca, il discorso forse non mi sono spiegato bene, poc'anzi. Da me evidentemente arriva in direttiva più di quanto arriva a te. Da te magari arriva in riflesso, arriva, ecco che è spiegato il motivo per cui la radio da te non era molto chiara, capito? Il dipolo del resto, lo sai, è un'antenna direttiva che trasmette in determinata direzione, se non è puntato proprio verso la tua stazione è chiaro che ci arriva il riflesso, allora il discorso cambia. Capito completamente. Va bene, dai, con tutto questo adesso io vi saluto e rimango l'ascolto. Dai, riprendete pure, io rimango l'ascolto, non rientro più. Riprendi pure la Romeo. Ok, vediamo un po' se Luca ha ripristinato. Luca, hai ripristinato? Eccomi qua, scusa. Ciao Giulia, ho così muretto, modulo 144, non lo farai. E ci sentiamo alle prossime. Un attimino, scusate. Ciao, nel capo, dalle cuffie tutto fuori, guarda, ci vogliono buttate. Scusa un attimino, Romeo, ho copiato, diciamo, le cuffie del computer e stavo ascoltando una song. Vuoi ripetere, scusa? No, stavo chiamando l'amico di Porto Torres, saluto anche l'amico che è andato in QRT. L'amico di Porto Torres, che adesso non mi viene nominativo, si è piazzato tutto quanto, si aveva piazzato l'antenna e poi doveva ritoccare il mic again. Ok, dai, adesso sono passato in antenna, mica la se la regolazione del mic again, la modulazione va bene. Avanti, numero uno. Ok, ascolta, prova a abbassarlo, cerca di portarlo più basso possibile il mic again. Allora, guarda, adesso in questo passaggio ho il mic again a 1,5. Perfetto, a 1,5 vai benissimo, guarda, lasciatelo dire, la modulazione è pulita e non rimane strozzata. Rimane proprio satura se tu aumenti il mic again. A 1,5 sì, perfetto, guarda. Poi non lo so se c'è qualche un altro, se ti può dare conferma. Per me vai bene così. Ok, allora vediamo un po' Luca, che Luca più o meno mi ascolta molto più spesso, più o meno sa la mia modulazione. Luca? Sì, buon passaggio, mica che adesso va bene. Chiara, buon passaggio, vai. Ok, vedi un attimino, prego. Perfetto, lascia la voce, non tocca niente, però hai questi picchi di modulazione allucinanti. Lo so, ma li vedo anche io i picchi di modulazione che mi dà, diciamo, che mi dà qua, ma considera che al momento sono circa con 20 watt di portante multa, poi logicamente con i picchi di modulazione va a salire. Va bene, niente. che logicamente col deporo è un po' tutto particolare. Romeo 1 considera che è un deporo fatto artigianalmente, comunque fatto non da me, fatto comunque da una persona di Sassari, considera che ha una rovesciata, il foro caldo, considera che il foro caldo è indirizzato verso Castelsardo, il foro freddo è indirizzato verso nord, verso la Zinara, quindi neanche verso Sassari, quindi devi andare, logicamente devi andare tramite un accordatore per ridurti le stazionarie, però anche se riduci le stazionarie con l'accordatore, la modulazione deve lavorare un attimino sul mic gain, capito? Ok. Comunque se la lasci così la modulazione va benissimo. E che antenna stai utilizzando per la 27? Allora, al momento sto andando diciamo con una manovra turbo. Come mi stai ricevendo a me a Porto Torres? Ma io ti ricevo con un Santiago di 9 con leggeri picchi quasi a 9,5. Insomma già va bene questa antenna, da funzionando bene. 27, quante soddisfazioni che mi ha dato. Adesso io diciamo sto entrando così perché c'è un amico ogni tanto che entra. Dico tuo paesano tubo, eh. Ho capito, ma guarda. Io ti posso dire una cosa, guarda, io nella 27 ci sono da anni addietro, molti anni, poi ho smesso, ho lasciato perdere per questioni di tabacco, poi ho ripreso, però ti posso dire che la 27 non finisce mai di poterla scoprire. È sempre un mistero la 27, guarda, è una frequenza dove le sorprese ce le hai sempre dietro l'angolo, e poi diciamo è misteriosa, almeno da parte mia, perché ci sono, considera che io ho il primo apparato che ho avuto, è stato un portatilino degli anni del 75-76, poi campano più avanti, diciamo così via. Però la 27 è sempre un mistero, guarda. Allora conosci anche Alfetta? Alfetta. Invece me lo ricordo Alfetta, e poi povero Aquila, lo ricordi? Sì. Vicino Alfetta ci abitava anche Vincenzo. Bravo Vincenzo. Vincenzo, poi c'era, chi c'era pure, poi c'era lì nelle parti di Montangillo a Porto Torres, che era molto amante delle macchine d'epoca, mi ricordo, adesso non mi viene il nominativo, aveva una Ford Taunus, forse ti viene in mente a chi mi sto riferendo. Non me lo ricordo quello. Per caso, aspetta, c'è anche un altro che io conosco, porta un mezzo pesante, Pasqualino, il cognome non te lo posso dire in frequenza, anche lui ha modulato nella 27, Tore, un tipo grosso che porta mezzi grossi. Pasqualino porta mezzi grossi, non lo so, guarda sono passati tanti anni, allora mi ricordo che la 27 allora era molto più popolata, era molto più popolata diciamo allora. Logicamente adesso la 27 ha calato moltissimo, non poco, molto, qui a Porto Torres, per dire, ce n'erano tantissimi, adesso non so se ti ricordi di Francesco TM, allora sezione CD a Porto, a, qui a Faro Forge, lì a Corso, alla Ferrera Borghese, poi alla Rinarita dove c'era quel vecchio stabile che lo chiamavano Ex-Scella, insomma, bei tempi. Ok, sì, Francesco già lo conosco, abbiamo lavorato assieme con Francesco, poi lui era andato in cassa integrazione, poi mi sembra che era entrato in comune o lavori socialmente utili, mi sembra che l'avevano chiamato. No, comunque mi sono divertito anch'io, ho avuto io delle belle soddisfazioni in 27, non adesso, diciamo, pochissima gente e basta. Io adesso più avanti sto usando un apparecchio un po' professionale, diciamo, quello che sto utilizzando qua, però poi anch'io cambierò e ho deciso di andare in un altro mondo e vedere un pochettino nell'altro mondo com'è. Ok, a quanto ho capito, diciamo, anche tu hai la passione, diciamo, raga. Diciamo, anche se la passione non manca, ma sì, dai, in effetti, diciamo, è una passione, diciamo, penso che sia una passione che non crei danno, almeno, diciamo, giusto per dialogare, giusto per farti la tua chiacchieratina, giusto per farti qualche collegamento, è giusto così, però la 27, io guarda, la 27 non si finirà mai di scoprirla, perché c'è sempre, ogni giorno che passa, guarda, c'è sempre da scoprirla. Va bene, detto ciò ti lascio, Romeo 1, chiudo che c'ho un signorino da portare al passeggio, il mio quattro zampe lì, non fare la solita passeggiatina. Ok, dai, fammi uno, fatto piacere, magari diciamo tutte le migliori e così via. Saluto Luca se in ascolto, saluto Giulio lo stesso se in ascolto. Buona serata con tutto, alle prossime. Avanti Romeo. Ok, riprende Romeo 1, buona passeggiata per il cagnolino, o se è un cagnolino o un cagnolone, qualche, sarà qualche pastore tedesco. Casomai ci sentiremo la prossima volta, tanto Claudio, ci conosciamo da tantissimo con Claudio, c'avevo una signora stazione prima, io nel 77 ho smesso di modulare la 27 e diciamo ho ripreso adesso perché c'ho questa apparecchiatura qua e ogni tanto ci sentiamo con Claudio, Zugrode e via dicendo. Che ha detto vieni sul canale 10, canale tranquillo, infatti io quando entro sempre qua perché trovo degli amici, insomma ti puoi fare una chiacchierata tranquillamente e via dicendo. Ok, ci sentiamo alle prossime, allora vediamo un pochettino se c'è Luca, se ci sei, vieni avanti. Ok, Luca direttamente magari è impegnato. Va bene, dai, di nuovo salutoni, alle prossime, correti da parte mia. Ok, alle prossime allora, vabbè io faccio una chiamata se c'è. Claudio, ci sei? Attenzione 10. Avanti 10. Beh. Buona. Sì, tutto bene, mi stavo finendo di vedere un film una volta tanto. Visto della Rovere. Sì, siccome avevo letto anche il libro, l'ho voluto rivedere. Chiamiamoci come mai non c'è il forno. E se poi mi puoi far passare per un vampiro? Se vuoi mica la pago la bolletta, anche se sono evito, però la pago. Devi vedere il risparmio che ho avuto grazie a quei quattro pannelli che ho messo, con quel sistema che ho fatto, più il pannello solare, sono passato da 180 euro a trimestre a 30 euro a trimestre. Lo so, però io già ho l'80% di sconto, quindi. Ma sì, come dipende? Sì. Cominciate il passaggio aveva passato il contenuto maestro, eccetera. No, certo, noi come dipendenti, come richiesto, che abbiamo l'80% di sconto su una certa parte, capito? Perché gli altri colleghi ancora di più, adesso i nuovi non hanno più niente. Capito. Ma ci capisco. Veramente poi l'energia che viene, che non ho capito appunto come funziona questa depesica, mi sembra che è un'energia che viene comprata da questa che è multinazionale e poi rivenduta. No, ma è tutto un sistema diverso ormai, non è che la producono loro, io vendo la corrente, punto, poi da dove la produco, la compro e la rivendo. Capito, ma come stanno di che è una multinazionale oppure proprio dell'Enel? No, erano i gruppi dell'Enel, no? Noi siamo stati assunti come contratto, con concorso pubblico, poi con la privatizzazione siamo passati, adesso sono tedeschi. Roger, infatti è Roger. Stavo dicendo, quindi non mi devo preoccupare, secondo te, adesso aspetto fino a domani, dopodiché sto facendo per il pagamento comunque, in modo tale che il mondo lo ha tratto. No, ma ti pare che... Ma... praticamente gliel'ho fatto per me. Ho capito, no, vabbè, ma non c'è problema. Vorrei che magari si fosse cercato qualcuno, capito? No, no. E come lo stai giocando? Perché? Sempre che stai giocando qualcosa. Sono fermo, sale il tasto del microfono. Allora, vediamo che siamo un momento di relax. A casa il Joker. No, sono a casa, io adesso ho fatto la notte, ho dormito oggi un'ora e mezza per riuscire a ingannare, capito? Invece sono sveglio. Io per altre strade, no? No, sto guardando roba al computer e poi dando un'occhiata con la cerretta perché devo cambiare la macchina, capito? No, quelli ce li ho sempre, perché i diodi sono tutti e quattro, sono tutti diodi diversi. I diodi per cambiare i diodi del VCO, del VCO 1, 2, 3, 4, quelli ce li ho sempre. E quelli, diciamo che alcuni sono facili da rintracciare, le trovi, altri poco costosi, mentre quelli dagli Stati Uniti, li devo ridare dagli Stati Uniti e ti fanno anche, vabbè, relativamente, ma mi sembra devo fare anche 20 euro col viaggio, 17, 15 euro, se non me lo ricordo, quelli dagli Stati Uniti, gli altri un po' di meno. No, ce li ho, li tengo, perché non si sa mai, possono sempre servire, capito? Mentre quelli del cosa, come si chiama? Dello scaricamentatore di banda, quello lì ne ho abbastanza, l'avevo trovato anche da fusare e poi ne ho ordinato un po' dalla Francia. Ma il costo qual è? Il cioè non hanno un costo tipo particolare? No, e alcuni sì, quelli quattro, gli altri pochi, 131, il BV 131 mi sembra sono, adesso non mi ricordo, cioè quelli costano poco, quelli della Francia, tanto poi, mentre quelli altri difficili li ho trovati solo negli Stati Uniti, sono i 285 mi sembra, e quelli già costicchiano, capito? Tu e becca. Quelli sono, adesso dovrei guardare che diodi sono. No, non sono, non dovrebbero essere tele perché fanno un'altra funzione, capito? Ma poi sono colorati neri, non sono. No, sono, vabbè, non è importante a quelli come sono, no, quando ne ho preso i 282, ne ho a vederli sono diversi, ma non c'entra niente, dai. Ho capito, dai. Spero che ormai la macchina non ha segreti. No, te l'ho detto, io quando lo stavo facendo quella, ho aperto la mia, stavo dando un'occhiata, no? E ho circuito che la mia era stata a suo tempo rimessa a posto da Bianconi. Allora mi sono messo le mani in testa come ha lavorato, praticamente cosa ha fatto questo qua, eppure un professionista, ho detto vai e fidati, cioè la piastra invece di smontare tutta l'unità, no? Quindi poi togli, c'è cioè, una specie, si chiama uno scudo, no? Il protettivo, invece di togliere questo scudo, qui va tutto di saldato, cioè è tutta la procedura, poi uno per uno, gli dio, fai tutto il lavoro, cambio io, no, questo invece dalla piastra sopra senza smontare niente ha tagliato i diodi e ci ha attaccato i diodi vecchi, ci cioè, sono i diodi nuovi, ecco quei lavori che fanno alla pucacciona. Poi cosa ha fatto? In ogni caso non era riuscito, infatti io quando l'ho aperto sono andato direttamente a, perché non lavorava dai 0, dai 30 ai 500 kHz, lui non lavorava l'apparecchio, il mio, no? Allora sono andato direttamente per sostituirli tempo fa, no? Quando stavo facendo quei lavoretti. Ma quando l'ho aperto poi ho visto che lì ci avevano già lavorato, hanno cambiato dio di quella maniera che era obbrobbioso da vedere. E ho detto che cavolo, ha detto dopo se l'ha fatto Bianconi e non è riuscito a ripararlo, ho detto ma mica riesco a ripararlo io, perché a colpo sicuro è andato lì perché di quello è il problema. Allora cosa ho fatto? Oggi però mi si stava girando i coglioni, pensare che dentro quell'apparecchio c'erano quei due risaldati in quella maniera, siccome ce li avevo, ho detto beh facciamo la prova, perché ne hanno cambiato se uno di Dio, il ritorno e vabbè, da vedere il circuito, e comunque sono, e lui aveva cambiato, si cambiano i dispari e i pari, lui aveva cambiato solamente i pari, ho detto che strano, perché allora ho preso, ho cambiato i quattro pari, due dispari, perché poi era, alla fine poi infatti non ho capito perché ne ha cambiato quattro, perché bastava cambiarne solo uno, no? Perché era la prima fetta di frequenza. Comunque li ho cambiati, ho rimontato tutto e ha ripreso a funzionare tranquillamente, ma montati come si deve, ha smontato lo scudo, cioè non si vede un lavoro fatto come doveva essere fatto, capito? Avanti qua. Senti, sente Sandro parlando male in Bianconi, oi, buonasera a tutte e due. Ma non metto lingua, io a Piano Bianconi lo conosco una vita e alcune radio veramente da buttare via li ha messe completamente a posto. Poi se tu dici così, io conosco lui tecnico, a te ti conosco come operatore radio, quindi non so dire altro. No, ma io voglio dire, non voglio dire, per carità, io non conosco questa persona, no? Io dico che tecnicamente sicuramente sarà non bravo, di più, ci sei, di più. Però quello che io non riesco a capire, quando è andata a cambiare questi diodi, cosa fai tu quando cambi i diodi? Prendi la scheda, la smonti, allora lui cosa ha fatto? C'è la scheda, tiri visto quando togli il coperchio, tiri fuori il coperchio posteriormente, lì ci sono dei diodi, togli delle vittine e togli una scheda di protezione con due vittine, quindi è semplice. Cosa ha fatto? Perché il lavoro lo fa in 10 minuti così ovviamente, ha tagliato i diodi, ha lasciato gli spettroni che uscivano dalla piastra e lì ci ha saldato i diodi nuovi. Il lavoro ben fatto invece, secondo me, com'è? Ovviamente ti porta via quattro volte il tempo, smontare, togliere le 6-7 viti, smontare tutta la scheda, girarla, dietro c'è una protezione con 6 appoggi che vanno a massa, vanno tutti risaldati, così puoi accedere al circuito stampato, col succhiastagno, dito sotto, di saldi praticamente i diodi, li metti nuovi nel circuito e li risaldi, questo è il lavoro fatto bene. Ovviamente ci vogliono 4-5 volte più il tempo, invece lì, visto che uno è pratico, se lo fa in 2 minuti lo fa, capito? Perché è stato fatto quel giochetto e a me queste cose non piacciono. Lo so, ma hai detto bene, dipende dal tempo, per quello che il cliente mette a disposizione col tempo o col denaro. Se una cosa fatta velocemente la puoi anche tamponare in quella maniera, se tu invece il tempo non ce l'hai, dici ascolta la porta, poi me la devi dare subito perché mi serve, allora te la faccio a cazzo di cane, perché non è il suo modo lavorare così. Io ci ho mandato qualche anno fa un 440 Medical Service, che vendevano le mascherine dei 440 e dei 140 nuove, chiaramente non originali, però con la marca Mattiate Kenwood. Abbiamo capito, la Kenwood non le fa più, quindi ha ceduto il progetto di cose come si chiama, copyright. Fatto sta che costavano $24, quindi con 18 euro si poteva avere la mascherina nuova, che del 440 e del 140. Ne ho ordinato due, morale mi hanno restituito i soldi indietro perché dice che i magazzini le avevano finite, è un peccato. È un peccato perché poi alla fine la radio, che è una radio che ha la mascherina nuova, sicuramente è un valore aggiunto. Sì, mi pare, io l'ho già visto anch'io, quel sito lì, però io con i 140 li ho lasciati così, sono nuovi, c'hanno lo stesso problema di quelli tuoi, ma li ho completamente puliti da quella vernice sporca che poi alla fine si consuma, diventa una cosa brutta da avere, e quindi una volta che tu le togli quella vernice c'hai il plastico colore originale prima di essere verniciato, e va bene lo stesso. Le mascherine poi però in compenso sono nuove, sia quelle dei 140 che quelle dei 440, quella del 440 che sto usando adesso, e niente, però se si potessero avere, ben vengano, va bene così. Sì, Fabri, capisco perfettamente, condivido, perché molte persone come me, come tanti altri, animatori soprattutto, anche noi di Valetto stanno andando, però sappi che la mia madre è qui là, quindi fanno in fretta, vedi un po' si riesce a toppare che la volontà di prendere tempo, smontare schede, si taglia, se risalda il nuovo, la fa allineamento e te lo manda giù, capito? Ma non è che lo fa perché è forza lavorando, lo fa perché a volte siamo noi che lo mettiamo in condizione di avere talmente fretta. Io adesso, per questo che lo sto mandando domani, vado alle porte, domani mattina glielo mando giù, e gli ho detto di farlo con molta calma, molta attenzione, controllare tutto dalla lavetta, perché sicuramente me la tengo io quella radio, perché Tino non ha soldi per riparare in questo momento, quindi io sto andando a riparare, poi rimarrà qua fino a quando non sistemeremo, ma sicuramente rimarrà qua per sempre. Ok, va bene, no, io ho fatto l'allineamento nuovo a questo 440 stasera, e sono attaccato al computer, mi ho tirato fuori quelle schede che mi hai detto, in pratica ho abbassato tutto la DC perché era tutto al massimo, e gli ho dato la tonalità perché era completamente chiusa, quindi adesso praticamente ha dei medio alti con la DC, proprio un pelino aperto, prima era tutto al massimo, quindi bastava che, infatti adesso il Mickey Gain è 1,5, prima era 0, perciò vedi bene che andando piano piano già si riesce a capire anche queste cose. Ma e tu che problema hai? La tua radio che ha problemi? Sì, no, li ho risolti. La mia radio aveva sempre il problema che non me ne fregava niente, però il problema è che dai 500, dai 30, praticamente da 0, dai, lui dice dai 30 ai 500 kHz, lui dava tutti i puntini, aveva tutti i puntini e non dava frequenza, iniziava a uscire la frequenza dopo i 500 kHz, diciamo, dai, e si iniziava a sentire, aveva quel problema. Quindi l'avevo sempre detto adesso la controllo, oggi mi ho messo da poco, in un'oretta e mezzo gli ho messo mano, ho smontato la scheda, gli ho cambiato quei diodi che mi erano arrivati, li avevo ordinato un po', e ha ripreso a funzionare tranquillamente, ma è una cosa normale di queste radio. Se tu ti scaricai, oggi stavo leggendo un attimino qualche sito che poi sono tutto in inglese, ormai ormai è una radio super conosciuta, quindi ogni difetto ti dice più o meno cosa può essere, le misure che devi fare, cosa controllare, eccetera, eccetera. E quindi sono andato quasi a colpo sicuro e ti ripeto, non volevo quasi quasi smontarlo, ero da parecchio tempo perché ho visto che c'avevo già, era stata riparata lì, e quindi ho detto, cacchio, chissà dove cazzo sta andando il problema, se è stata riparata, ho detto, proprio cambiate quei diodi, è proprio il difetto, quando è il difetto la prima cosa cambi quei diodi, ho detto, quindi deve essere qualcosa, alla fine ho detto, manca, io ci rimprovo, li ho cambiati ed erano proprio quelli, capito? Perché ti dico, poi non so alla fine, perché io ho la fatta che lì c'è proprio l'adesivo Bianconi a suo tempo, ma un sacco di anni fa, era stata sparita su per fare l'allineamento o qualcosa del genere, mi sembra di ricordare, di 10-12 anni fa, 15 anni, boh, chi se ne ricorda più, là. Perché tu l'hai comprata nuova quella radio, come quella, la prima che avevo io, che ho dato a Roberto, mi pare, sì, Roberto Farina, cioè Roberto Quadrato. Sì, ma adesso guarda, questa era una vita fa, quindi l'ho usata, adesso non mi ricordo se l'ho presa nuova oppure anche io, ma a seconda mano per modo di dire, perché era appena uscita, non me lo ricordo, però dal negozio l'avevo presa, sembra da Mario, boh, non me lo ricordo. Anche io la prima l'avevo presa a Mario Montati, ho preso il 440 e il 430, e vabbè, lo so, io da più di 25 anni che uso Kenwood, ho cambiato tante di quelle, di quei diodi transistor allucinanti, cambiati non da me, io li portavo da Carlo a Chiaramonte, me li faceva lui, dove poi mi ha insegnato a fare quelle piccole modifiche che so fare, però così, in difetto da tempo da quello, infatti io ne terrò una perché mi sono già stufato di stare a mandare le radio ogni due anni, ogni anno a fare queste riparazioni. Adesso questa è l'ultima che ho comprato, non ne compro più, 440 l'ho venduto a Sandro e dopo un mese me la sono ripresa. Però ho giurato non li compro più, questa era completamente nuova, non era neanche a sintonia continua, ho tagliato il diodo io, ma sono tutta riallineata, VAT, radio, LC, tutto, perché era completamente chiusa, lavorava solo in banda laterale, adesso lavora bene anche in M, e va bene così, però non le comprerei giù più. A dicembre se vado in fiera però solo o questa o l'altra che sto riparando, oppure tutte e due fuori dalle balle, il 440 mettendo la linea del 430 completa e boh, basta, prenderò una radio amatoriale grossa, un 7008, un 7006, un Pro 3, vediamo, un 756, insomma vediamo qualcosa di grosso, giusto per fare un po' di HF come i cristiani e basta, perché intanto non ti avverne tante, alla fin fine ti si guardano, forse non lo guardo, e quando lo mandi su, già il preventivo mi ha fatto Bianconi, sono dalle 200 alle 250 euro, quindi è così, il lavoro mi ha detto, lo sai, buon lavoro fatto bene, io te lo faccio, buon lavoro fatto veloce, perfetto, poi non ti lamentare, quindi ho detto tienila il tempo necessario per farla bene, bene, bene, bene, me la devi mandare nuova all'interno perché esternamente guarda, l'altra mano con suo imballo originale, scatto originale, con i tappi in polesterolo, la sua busta proprio originale, tutto originale, è nuovissima quella radio, avrà lavorato se no 10-15 volte, non di più, quindi è così. Avanti Antonio, riprendi, tu non mi fai, però c'è anche tu problemi di radio. Negativo, anzi, sono riuscito a farmi un regalo per il mio quasi compleanno, sono riuscito a trovare un 440 al basso costo da una persona che dovrebbe essere abbastanza in gamba, che non ha problemi, che è perfetto, l'ha appena riallineato, tutto a posto, speriamo bene. Il 440 è una bella macchina, non ci sono dubbi, il problema è che devi usarle, devi usarla. Se la prendi devi usarla sempre, tutti i giorni e tutti i giorni, buttare via tutti i baracchini, attaccare quello e farlo andare, perché altrimenti l'esperienza a me mi ha messo in condizione, a volte fare rame, io su uno ci ho rimesso una barca di soldi, perché quando mi sono trasbloccato ne avevo due e alla fine ne usavo uno solo perché non avevo posto e l'altro è rimasto fermo un sacco di tempo e quando sono andato ad accenderlo tutto a puntini, tutto mi ero rotto le palle. Ero propenso di non ripararlo, invece poi ho scoperto che era un condensatore scoppiato e quindi l'avevo sostituito, fortunatamente ha ripreso a funzionare, però bisogna farlo andare tutti i giorni, perché altrimenti è un casino. Quindi adesso ne hai già tre, mettile sotto. Anch'io ho preso un altro alimentatore giusto per farle funzionare tutte, e così come ho messo il commutatore a 4, ho fatto un sacco di altre cose qua, però bisogna farle andare tutte, un po' un giorno uno, un giorno l'altro, anche quando stai parlando, come ti sposti, fare, l'importante è farle funzionare, se no è un casino grande, davanti Fabrizio. Sì, ma è così, così. Poi il problema di queste radio vecchie qua è che risentono ormai dell'età, quindi degli interventi bisogna farli, cioè se ce l'hai l'app, gli dà un'occhiata e vedi gli interventi che devi fare ogni tanto, però la cosa di bello, diciamo, su questa radio, che è stata una radio vendutissima, che trovi tutto, quindi sai cosa succede quando una radio è nuova, anche se la mandi alla Kenwood, non è che fanno così e trovare il difetto, loro si studiano tutto ed esce una scheda tecnica, come le macchine, ed esce una scheda tecnica, ma in tutti questi anni gli ha dato tanti di quei difetti in base alle serie, in base a quali sono i componenti che hanno montato, delle serie difettose, quindi hanno tutte, e ormai trovi tutte queste schede in internet, quindi è un problema, invece di stare lì con la sondina a cercare tanto lo schema, comunque tu mi dando la frequenza, torni indietro, arrivi lì, prendi, vai a colpo sicuro, dice guarda che se fa quel difetto è quello, vai direttamente lì, due controlli, sì, in effetti è quello, smonti quei componenti, li cambi, li sostituisci, cada due allineamenti e la radio è pronta, capito? Perché sono radio ormai che sono conosciutissime, il buono è quello, il cattivo è che se ce l'hai come operatore ogni tanto ci devi intervenire, capito? Poi magari è fortuna, ti va bene per 20 anni, per carità, però potrebbe ogni tanto, che ne so, a un certo punto la sostanza, senti che in ricezione c'è i toni che hanno dei problemi, cazzo, uno dice mica cazzo, c'è la voce livellata, di chi senti, esci di testa, vai e trova il difetto, vai lì, stavo leggendo, nel condensatore che si è asciugato, cambia quel condensatore, allora fai due controlli, ecco lui, lo cambi e torna a posto, quindi da quel lato lì anche si è avvantaggiati. La pazienza e soprattutto la capacità di fare certe cose, perché non è che tutti sono tacchi tacchi ed è tutto fatto, c'è quello che non capisce una scelta, invece di staccare un transistor stacca un diodo, invece di staccare un diodo stacca un condensatore e fa solo casino. Se non conosci i componenti, Fabri, non è facile mettere mani dentro un radio del genere, te lo dico perché io sinceramente non le tocco, nonostante conosca i componenti, ma non le tocco per il semplice fatto che non ho quella passione necessaria e giusta da potermi permettere di stare lì a cambiare, a fare, non, io faccio solo allineamenti, tu dammi una radio a me fuori allineamento, anche orecchio, la cuffia io te la metto 131, vai. Io mi avevo modificato il mio, adesso mi ha dato queste due valore. Oggi ho iniziato a mettere mano, adesso domani mi arrivano le valore nuove. Sono delle similari delle L590, però sono corte, anziché lunghe. Vediamo di farlo andare, perché anche lì vedi sugli amplificatori mi piace sui variabili, sulle cose, lavorarci eccetera, ma sulle scale piccoline fa meno, poi vai con lunga, tocca entrare quel giorno con gli occhiali, poi trovetto, non ho pazienza, sinceramente parlando non ho pazienza, ma è un tutto il peso qua a sasso, io il continente il 4,40. Il continente sui che? Hai guardato chi è? Non per dire se sono come cognome, la radio amatoriale, è una persona, mi sembra molto simile, poi non credo si voglia giocare il flag di Vitero, una cosa del genere, perché ho visto che abbiamo giocato altre radio e che hanno un prezzo altamente superiore, ho visto la soddisfazione degli acquirenti, dovrebbe essere abbastanza affidabile. Speriamo che io ho preso lui in culatte su eBay e quindi niente, una volta ho ordinato il gemello, stavo raccontando a Antonio ieri, a Romeo, ho ordinato proprio su eBay, pagato 350 euro, io ce ne ho uno solo. Però sono due coppie praticamente, l'IC271 e l'IC471, io ho l'IC271, ho visto il 471 e ho detto caspita, lo devo prendere, insomma, ho fatto miracoli, salti mortali, giri di truffe, sai come si fanno, però ci muore i soldi, tra banca e casa, ho detto ci devo riuscire, ci sono, ci sono riuscito, faccio un posto qui. Ordino tutto, metto d'accordo con lui, mi ha mandato Caserta, attenzione, da Caserta, mi ha mandato il pacco, l'ho seguito tutto a posto, l'ho telefonato, nessun problema, solo che queste sono delle truffe organizzate, come è successo a Gianni, è successo a Salvatore Banca, un sacco di gente. Contentissimo, ora questi grandi figli di puttana cosa hanno fatto? Hanno preso la misura della radio e hanno messo dentro due mattoni, due forattini proprio a misura giusta, peso giusto, fatto bene il pacco, committente fasullo, tutto fasullo, e dopo il pacco dentro c'erano due mattoni, due bei forattini proprio da potermi tirare a testa da impiccarmi. Vabbè, però adesso le cose sono un po' cambiate, nel senso che realmente passi per un sistema che ti balla, per cui alla fine niente, se dovesse essere una truffa li risolvono automaticamente a lui dalla polizia e se li rimettono a te, nel caso contrario lo denunciano, perché è una cosa dove lui deve lasciare tutti i suoi dati, cioè è un attimino più sicura come metodo di transazione, quindi per quanto dovuto sostenere sempre che la radio te l'ha mandata. Non è così. Questo mi ha mandato la sigla radio amatoriale, sono messo cognome che coincide poi alla fine con la PayPal che io dovevo caricare. Poi ho fatto una rapida ricerca e esiste, mi ha dato il suo nome vero, cioè i suoi dati veri. Non ci dovrebbero essere problemi. Più che altro mi preoccupa come arriva la radio, quante condizioni è. Non devo dire relativo. Le domande che solo quando ti arriva poi un attimino di fare. Io beh, quando arriva l'importante è lavorare in funzione, se poi c'è qualche ritocco da fare, problemi non ce ne sono, si fa. Ormai Fabrizio è pratico, è 4,40, quindi non ha problemi a metterlo a posto. Il problema è che la manda in condizioni efficienti. No, allora il PayPal non c'era, c'era il PostePay. Infatti con quello che avevo contrattato la ricarica andava intestata ad un altro, io ne ho parlato a sua volta anche con Luca, poi vabbè, può succedere che a posto di sia intestato un altro lì, vabbè, ho detto affanculo, l'avevo fatta, invece ho preso una grande fottitura. La seconda volta con accende ma no, non si sente, non riceve, non trasmette. Lo aveva fatto a Franco, California, ce l'ha per bolletta, diciamo lì nella stazione Ovario. La stessa cosa, 250 euro, arrivata la radio, bellissima, perfettissima esternamente, alla grande, sono andato a accenderla e accendeva ma dentro era vuota, non c'era una valvola, non c'era un transistor, non c'era un finale, non c'era un cacchio, niente, completamente vuota, vuota, quindi ho detto basta, cioè buttare via quattro così, sono lavorati con tanto sacrificio, mi... E quindi quando ho comprato in fiera, ho comprato radioamatori, oppure ce l'abbiamo scambiati tra di noi, insomma CB, cose varie. Ne ho sempre dato più io di quello che posso aver ricevuto, però ce ne sono tantissime tra Sassari, Polo Torres, provincia di Sassari e Radio Mie, tantissime. Che le ho sempre date io, mie personali e efficienti in ordine. Quindi, la gente si è sempre fidata, la stessa cosa faccio io quando vado a comprare da uno che conosco, ma comprare su eBay, boh, finito. E quindi Fabri, allora, tornando al tuo 440, anche il mio, quando questo, non quello che va passando, questo, la stessa cosa, però puntino la faceva. Deve partire da 50 kHz, non da 500, 50 kHz e 30 MHz. A 50 kHz è tutto a posto, appare la scritta 50.0, però non mi serve iniziare invece a ricevere da 550-600. Però puntini non mi apparivano. Auguri. Paolo, buonasera. Auguri Antonio, allora. 39 anni e sono tanti. Io prossimo mese, il 20 novembre, a quest'ora, mezzanotte 5, ne faccio 51 invece. Ma sono tanti lo stesso. Cosa c'è domenico a protestare? Cosa c'è? Te l'ho promesso, te lo voglio bene a prenderti. Basta che mi esci a mezzo ai piedi, uomo più peloso del mondo. Ma se entrato in galleria non risponde più. Sì, riprendo io dai. Auguri, 39. Già va bene, dai, è importante invecchiare. E ti dicevo, classico, anche la mia aveva, perché la, se non sbaglio, il 430 parte da 30 a 500 kHz, quindi da 30 kHz a 500 kHz la mia era morta. E sicuramente ha lo stesso problemino, un diodo, sono due diodi, uno ed è il D8 e il D11, mi sembra, uno è pari e l'altro è dispari, qualcosa del genere, il D4, vabbè, comunque i primi della piastra, sono due diodi, si fa subito la prova e lo senti, tac, commutare e ti rendi conto che puoi iniziare a lavorare, sono due diodi. Io comunque questa radio, la mia l'ho già riparata due volte. Adesso la prossima cosa che devo fare, quindi oggi ho incontrato a Mario Notari, ci siamo sentiti, una di queste notti, tanto una bestia notturna, una di queste notti me ne vado al laboratorio da lui, che mi mette a disposizione le apparecchiature, magari mi dà anche una mano perché sono apparecchiature che io le uso ogni giorno, quindi se non usi queste apparecchiature ti devi, ecco, e quindi mi darà una mano. Voglio provare, anche se magari non ne ha bisogno, a dargli tutto un allineamento, anche perché io ho l'impressione, non ne sono sicuro, quello che dicevo l'altro giorno in radio, che mi salta che ho un po' troppo QRM, perché poi ti spiego anche perché, è un po' troppo QRM, quindi diciamo che tecnicamente si dice, cioè diciamo che un rapporto segnale rumore troppo alto, ho questa impressione, quindi la voglio controllare con le strumentazioni giuste, quindi a collegarla all'oscilloscopio e vedere cosa succede. e credo che sia quello, ho questa impressione. Infatti adesso quando Antonio la porta, la portiamo qua e la proviamo, però io mi ricordo che quando stavamo riparando la tua, che lavora fino a 744, 449, qualcosa del genere, quindi su quelle bande era silenziosissimo in confronto alle mie. Ecco cosa mi ha dato un intervento, ma non è che la mia ha dei problemi, mi è venuto il dubbio. E poi stavo facendo altro, non ho più avuto modo di provarlo. Quindi voglio fare questa prova, perché tu come la senti la radio, per carità, va benissimo, c'è un allineamento, visto quando quelli vanno in banda laterale, le prove, cazzo, gli spacco il pelo proprio, e al centesimo spacco la frequenza, non ho problemi, è proprio centratissimo. L'unico problema è questo, gli butto dentro, che ne so, un chilo, un segnale dentro, e lo devo seguire sino a dove, che passa su tutti gli stadi, sino a dove lo seguo, e vedo un po' se ha problemi, lo metti subito. Poi, ecco, lo farò insieme a Mario, che quello è un demonio, e mi darà una mano, meglio che c'è un professionista a fianco che è un dilettante come me. Comunque, se quella radio che non hanno smantellato dovessero mettere mano, ricordati che sull'oscillatore, sul V1, che ci sono quattro oscillatori, di lì ci sono, su due oscillatori ci sono quattro diodi che non sono esattamente del valore perfetto, si avvicinano ma non sono perfetti, perché erano corrosi dalla colla, quando tutto la colla erano corrosi, infatti quelli che io ho ordinato per cambiarli, e quindi li ho messi di valore, li ho trovati da fusare o simili, ma non uguali, infatti li ho provati sull'oscillatore che funziona, e oscillava ma non andava in ascolto, capito? Quindi vanno quei quasi quattro diodi che se qualcuno decide, che ne so, che magari di metterla a posto, dici guarda, prima cambia i quattro diodi, ci sono quattro diodi da cambiare, perché uno se non lo sa non ci fa caso, non ci pensa nemmeno, capito? Però sappilo. Sì, ve l'ho già detto, ma credo che la metta a posto, non so, io adesso sto mandando quella di Tino, che praticamente aveva lo stesso problema di quello lì, si è zittita proprio in giro di pochissimo tempo, e addirittura quando me l'ha portata la stavo tenendo accesa per vedere se si riprendeva, eccetera, display tutto ok, tutto a posto, la parte dei 26-28 non andava, però andavano i 40 metri, 80 metri, 160, 20 metri, 15, tutte le varche, senza problemi. Quando la settimana scorsa l'ho accesa, gli ho collegato l'antenna, anzi gli ho collegato l'antenna, sono andato a accenderla, manco display più, nulla, completamente muta da tutte le parti. Quindi ho detto basta, sono salato le palle, gli ho telefonato, ho detto no, allora io non so solo, aspetta, non me ne frega niente, io mi la mando, la faccio riparare, poi la uso, quando la vuoi ritirare vieni qua, te la metti, non me ne frega niente. Sono vari, io ci tengo troppo, non mi piace vedere così, questa è nuova di pacca, me l'ha portata, c'era il nylon proprio suo originale, marcato Kenwood, proprio mai usata, mai, ed è per quello che la radio si guarda, ecco perché ho detto Antonio di usarla, farle andare un po' una, un po' l'altra, insomma. E la dovevamo cammellare. Vediamo Domenico, mi pare di aver sentito Domenico. Buonasera a tutti, buonasera a tutti e ben ascoltati. Ciao Domenico, stai andando? Arrivando. Domando se in ritardo oggi allora. Oggi uno solo per quello, con calma. Ah, uno solo, io allora, è già finito, eh. Ti mando avanti Antonio, quello che avanti Antonio è già andato a festeggiare. A drogarsi è andato, ok, a drogarsi. Ragazzo e ragazza ancora? E finché non ti fai figli rimani sempre ragazzi, sono colleghi più grandi di me, certo non sei maturo per carità, però hanno modo di fare diverso, giustamente, non hanno pensieri, rimani sempre un po' ragazzotto comunque, giustamente, ero vero, è così. Vabbè, col tempo già si cresce piano piano. Va bene, va bene. Babbo, dai signori. Vi saluto. Vi stavo ascoltando, ripeto, già da... C'era un questione di prove tecniche tra Sandro, insomma un po' tutti. Io sono rimasto ad ascoltare perché no, non mi va di intromettermi in cose che magari non vanno bene. Quindi sono rimasto in agguato. Va bene, dai Fabri, ti saluto, è già mezzanotte un quarto, anche se domani non lavoro, però sono un po' stanchino, cioè, tutto il giorno che vado, vengo, torno, eccetera, eccetera. Sono beneficiato alcuni coperchi oggi, di baracchini, di cose, mi ho schermato un pochettino di cosettine che sto per fare, e niente. Ti saluto Fabri, fammi sapere, anche per la radio di Antonio, se avete bisogno di qualche consulenza, sono qua, ma spero che non ne abbia bisogno, visto che oramai sono veramente le mani per qualsiasi cosa. Ok, ciao di nuovo, buonanotte, ciao Domenico, ciao Antonio Grosso, di nuovo tantissimi auguri per il compleanno, e buonanotte, anche un saluto circolare a tutti gli esseri, non lo più all'ascolto, rilancio Antonio Grosso, se c'è, ascolto, qui chiudo, buonanotte a tutti. Non c'è ancora il riprendo, lui aspetta qua, no, ti rubo altri 5 minuti, ti rubo altri 5 minuti, dai, ti faccio andare a letto 5 minuti più tardi, non di più. Ascolta, dammi un attimino un'indicazione. Io ho visto un 920 come la tua, e gli ho scritto, e il prezzo mi sembra interessante. E mi ha detto che per un utilizzo eccetera eccetera lo sta andando via con microfono e alimentatore, microfono originale e microfono da tavolo, però gli ho scritto che volevo sapere che tipo di microfono da tavolo, ovviamente, mentre intorno mi sembra 750 euro, qualcosa del genere, 750, quindi il prezzo mi sembra interessante, dice che andava come nuovo eccetera eccetera eccetera, le solite cose, poi ovviamente guida anche i telefoni e tutto quanto, quindi il prezzo è questo. C'è il filtro FM in più e poi qualche cos'altro dovrebbe avere, là. Allora, ecco la mia, quella che avevo io prima, io ho l'FT950, che è quello che hanno fatto dopo il 920, di categoria superiore con DSP e altre cose che 920 non ha. 920 è la prima che hanno fatto, il prezzo di partenza di quella radio era 1100 euro. Sappi che fuori produzione, la IESO non lo fa più. E quindi credo che insomma il prezzo sia abbastanza onesto. 700 euro se ti dà l'MD100, però quello nero che ho io della IESO, che costa 190-220 euro mi pare col microfono. Quindi se ti dà quel microfono con 700 euro si è andato anche bene. Però, sì, devo avere anche la scheda FM, però è 920. 950 non ha nessuna opzione, è completo di tutto. 920 invece deve avere la scheda M e la scheda FM. Non il filtro, la scheda M e la scheda FM sono opzionali. Quindi se te lo manda con la scheda AM e FM più l'ML, l'MD100, un alimentatore, non so che alimentatore sia, alimentatore di linea, non è AIS. Quindi se ti manda anche un alimentatore il prezzo è buono, però stai attento, informati bene che ci sia la scheda AM e la scheda FM, perché altrimenti non vale niente. No, ma infatti per quello gli ho scritto un email, non vorrei che non abbia la scheda FM, AM, mi sa tanto perché non la nomina, e quindi gli ho scritto, giustamente lo vedo, gli ho scritto, adesso vediamo quando mi risponde, dai. Infatti ti ho detto se lo sento dopo glielo chiedo, perché anche io l'ascolto, poi io stavo guardando la televisione, c'erano sempre i soliti controlli lì e qui e là, allora anche io ho fatto come te, mi ho guardato quelle film su Rai 1, che avevo letto il libro e quindi me l'ho guardato volentieri, dai. Va bene, Clara, io ti saluto, poi pure a nanna, mi fa piacere, hai capito tutto, dai, non c'è bisogno di credere, mi fa piacere. Reputo una persona intelligente, ti reputo, dai, e mi fa piacere. Ok, buonanotte, tra, al limite ci sentiamo domani mattina anche per un colpo di bassa e magari siamo in zona, ti offro un caffè, se sono libero, dove essere libero, magari ci beviamo un caffè, una cosa al limite, dai. Ci sentiamo domani, ciao Cla. Figurati Fabri, non c'è nessun problema da parte mia. Ecco, vorrei solo che la gente capisce che faccio radio e vivo il mondo della radio come radioamatore, quindi qualsiasi cosa si può fare o faccia qualcuno di sbagliato, a me dà sempre fastidio. Mi piace invece al contrario la gente che si impegna, che costruisce, che fa, insomma, cercando di realizzare qualcosa di positivo, e questo naturalmente fa, credo faccia piacere a tutti, non solo a chi fa radio da 40 anni, poi per il resto non ho nessun problema, rimango sempre al mio posto e va bene così, sono contento anche io. E niente, per il resto poi quando ci vediamo di persona ci facciamo due chiacchiere. Ok, di nuovo un saluto circolare a tutti, di nuovo anche per Antonio, tantissimi auguri, ciao domenica. Buon rientro, buon tutto, buon riposo, allora visto che non devi fare il secondo. E ciao a te Fabrizio, fammi sapere se hai bisogno di qualche consulenza. 920 è una grande macchina, io l'ho avuta prima del 950. Va bene, è molto facile da usare, non ci sono problemi, anche se è un digitale. Ha un sottomenu abbastanza semplice da poter seguire, da poter giostrare come voi. Differenza di questo, sinceramente ancora non ci ho capito un accidente, nonostante lei la faccia, non ci ho capito un accidente, però piano piano riuscirò a capirlo, anche perché lo sto usando talmente poco che non è che sto facendo molta attività, quindi piano piano vedrò di capirci qualcosa di più. Va bene, fammi sapere, informati, dovete demandare l'MD100, l'MD100 soprattutto che ci sia la scheda AM, non FM, l'FM c'è già, la scheda AM, perché se non c'è la scheda AM quel prezzo non ha nessun valore, anche perché è fuori produzione, quindi con quel prezzo giusto con la scheda AM e con l'MD100 lo rimetto a torto. Ottimo per la truppa. Ok, buonanotte a tutti, rilancio nuovamente per Antonio Robbe, se c'è rinnovandogli gli auguri, altrimenti vi saluto tutti e va la nanna, ciao ciao, buonanotte. Beh, buonanotte, mi pare che si è ubriacato, cacchio, ed è caduto dalla sedia, si è scolato una bottiglia come ha compiuto gli anni, dai, buonanotte Cla, avanti Domenico. Cla, dai, ci sentiamo, buonanotte, alla prossima, ciao ciao ciao. Antonio Grotte, per chi sa dove ci usci tocca. E tu dove siete? Che parte sei ora? Cosa viene? In TNT, qua in azienda. Quindi è finito, dai. E veloce si porta tutta la merce così. Lavorano i miei colleghi domani. Beh, ma riposi domani, dai. Sì, io durante il giorno non faccio niente, capito? Quindi praticamente fai le ore notturne? Senti, con queste ore qua, se non mi muovo io durante la notte, loro di giorno non lavorano. Ho capito, quindi che orari fai? Poi tra le 7 fino a... Adesso ho capito che sto facendo solo viaggio, però prima ne facevo 2, finivo intorno alle 3:30-4. Sono pesanti, dai, perché puoi guidare di notte, forse più tranquillo perché non c'è traffico e guidi meglio, però una rottura di balle. E a parte lavori meglio, non c'è rompi balle, non c'è niente, capito? Poi nel mio lavoro è pulito, sgancia ganci, solo che è di notte, è quello lì il problema. E basta, ma ad altro se... Lo preferisco 100.000 volte di lavorare di giorno. E allora va bene, allora va bene, allora va meglio, allora va bene. Allora, vediamo il grotte, attenzione al grotte. Morto, perché come ho detto ho fatto gli anni e se n'è andato. Puttana, era giovane, a 39 anni. Pensavo che era più giovane io. Allora no, però quando avevo prima sentito 39 anni. Sì, cazzo. E sai che cos'è? Che tu adesso l'hai sentito la radio e ti sentiva più giovane, inganna molto, perché se poi lo vedi di persona, sembra molto più vecchio di 39 anni, capito? Beh, anch'io, anche a me me ne davo di più, eh. Io ne ho 41. E allora c'hai la mia età, io ne ho 42, ma me ne danno qualcuno di meno, dai. Qualcuno di meno. Vabbè, diciamo che in questi ultimi anni mi ci sono un pochettino imbiancati i capelli, non molto, ma un po' brizzolato. Sino a qualche anno fa erano, non ce n'erano e quindi erano ancora più giovani che facevano, però già si vedono, maledizione. Capito? Io i capelli bianchi ce li ho da parecchio lo stesso. Però dico io la salute, portate la salute, poi. E quello sì, quello che mi sono iniziato qualche anno fa, tu consideri che un collega che ci vediamo ogni giorno si è girato e mi ha detto, minchia, non ti avevo riconosciuto, perché ero girato e visto i capelli che c'erano un po' bianchi, no, era abituato a vedermeli corti, perché li avevo lasciati allungare un pochettino, che non avevo tempo di tagliarveli, e ha detto, minchia, che proprio in pochi anni a me non ce li ho bianchi, ce li ho un po' brizzolati, ovviamente l'età. E nel giro di 3-4 anni, 2-3 anni, hanno iniziato a sbiancare. Positivo, ma per me dicono quella là dipende la, per me dipende questa atmosfera, questo inquinamento che c'è, perché parecchia gente quasi tutti, dai, o li perdiamo o sono bianchi. Sì, vabbè, ce ne può fregare di meno alla fine, forse come hai detto tu, prendiamoci la salute e via. E allora quello che dico io è importante la salute, poi lavoro, compare la famiglia e la salute, poi dopo tutto l'altro a me non me ne frega proprio niente. E così tutto l'altro è contorno, là. Tutto il resto è contorno. Poi dici che richiamo grotte, se no anche io inizio a chiudere, perché neanche io faccio i turni. Ho poi finito la terza notte e stanotte sono sveglio, sì, che devo riuscire a stordirmi, adesso prendo un po' di melatonina o qualcosa, perché devo riuscire a stordirmi, perché se no mi faccio la quarta notte. Quando prendo il ritmo così non così. Io facevo il giornaliero, poi non ho più voglia di seguire ditte, roba del genere, ho rotto i coglioni, me ne sono andato in esercizio che lo trovo più alla fine i turni, però mi lascia con la mente più libera, capito? E quindi però i turni vogliono fatti, non sono preso, ti lasciano tempo libero, ma vogliono fatti, soprattutto le notti. Positivo, lo so, però sei più rilassato, anche se è pesante la notte, però a non sopportare certa gente vuol dire tanto, secondo che lavoro fai. Sì, no, ero adesso poi prima eravamo con i nostri istituti in appalto, quindi meglio così, già va bene, dai, non ci lamentiamo, non ci possiamo lamentare. Per quello preferisco questo lavoro, non tratto con nessuno, no, niente, vado lì in deposito, sgancio, rigancio il rimorchio, torno qua, non ho da trattare con clienti, non ho da trattare chi la vuole cruda, chi la vuole cotta, chi ti vuole aspettare, chi ti parla male. Qua ci sono 8 anni, vado attorno, pacifico, tranquillo. E infatti alla fine va bene, alla fine è meglio così, dai. Vabbè, dai, Rome, io ti saluto, mi ha fatto molto piacere sentirci e fare una chiacchierata. Saluta chi ti sta ascoltando, a Grode non lo saluto perché se n'è scappato, poi se mi sente può entrare a salutarmi, se no ci sentiremo domani, là. Alle prossime mille e ti rilancio per i saluti, poi rilancio a Grode, se no pace, là. Capo, dai, buon proseguo, buon tutto, alla prossima puntata, ciao ciao, trovate se ci sei, vieni avanti.